Stiamo assistendo a un fenomeno sociale molto raro solo qualche decennio fa, cioè i matrimoni tra persone appartenenti a confessioni religiose diverse. Finché per confessioni religiose diverse si pensa a unioni fra persone di quell'area del cristianesimo, che comprende cattolici, protestanti e ortodossi, si sa che oramai la società italiana vi ha fatto l'abitudine, ma un matrimonio tra una donna cattolica e un musulmano è qualcosa di non solo impensabile fino a qualche decennio fa, ma anche improponibile, inaccettabile. Eppure i matrimoni fra uomini musulmani e donne di altre fedi diventano sempre più frequenti. Come spiegare questo fenomeno? Vi è forse armonia tra l'Islam e altre fedi? No! Non vi è nessuna armonia tra la fede musulmana e qualsiasi altra confessione di fede. Il fenomeno dei matrimoni interconfessionali ha una sua ragione, non affatto oscura. In un'indagine sui matrimoni misti è stato rilevato che una delle ragioni fondamentali dei problemi di coppia consiste nella scarsa o nulla conoscenza della propria religione e di quella del coniuge. Già questo aspetto mette in evidenza la necessità di parlare della fede e della cultura musulmana, non tanto per inveire contro di essa, ma per mettere a conoscenza di alcuni fattori basilari: la ragazza che ha o potrebbe avere il desiderio di sposare un musulmano, affinché lo possa veramente amare, dato che amare un uomo significa anche amarne la cultura. Purtroppo questo non viene insegnato, perché si pensa che i sentimenti siano in grado di sopportare e accettare ogni cosa. Ma l'entusiasmo e la passione giovanili si rivelano ben presto delle false speranze e inutili appoggi per un matrimonio felice e duraturo. La ragazza che desidera sposare un musulmano deve anche essere a conoscenza di legarsi sentimentalmente e moralmente, coinvolgendo anche i propri figli futuri, ad un uomo che per cultura molto raramente è in grado di abiurare la propria fede. Il musulmano, più di ogni altro religioso, non ha il diritto di pensare e di giudicare se la sua fede è giusta o sbagliata, perché egli deve accettare gli insegnamenti religiosi trasmessigli senza porre domande. Il musulmano Mark Gabriel, PhD, descrisse così il suo primo giorno di università, lo sceicco che teneva la prima lezione. Ci disse: «Dovete accettare per vero quello che vi dico. Non permetterò nessuna forma di discussione in classe. Se non tratterò un certo argomento sarà perché non vale la pena che lo conosciate. Ascoltate e ubbidite senza fare domande». Gesù e Maometto, Casa della Bibbia, 2005 pag. 8. Con una simile cultura, chi può cambiare la propria fede? Ho spesso occasione di parlare con dei giovani musulmani, e un episodio mi ha fatto fortemente riflettere. Tre ragazzi musulmani parlavano scherzando con due ragazze italiane, avendo nei riguardi di questi atteggiamenti attraenti, generosi e pieni di riguardi. Le ragazze avevano l'ombelico scoperto e, ogni volta che si piegavano, si vedevano apertamente la schiena nuda e le mutande. Dato che io sono un maschio, mi stringevano l'occhio, mi facevano il sorrisino ed esprimevano il loro desiderio di possederle fisicamente. Ad un tratto fui colto da un senso di rabbia e dissi loro: «Voi musulmani, qui in Italia, vivete da leoni. Voi andate a letto con le nostre donne, mentre voi tenete ben chiuse in casa le vostre e le fate sposare solo con dei musulmani». I ragazzi fecero letteralmente un urlo di gioia e di vittoria, e mi risposero: «Tu sì che hai capito le cose». E, vero, fino a che le vostre ragazze sono così facili, noi ne approfittiamo. Tanto cosa ci rimettiamo? I musulmani con le ragazze italiane sono come volpi nel pollaio, come leoni nella savana, che non hanno altro se non l'imbarazzo della scelta, perché le ragazze italiane non sanno cosa vanno incontro. Pochissimi sanno che l'Islam è una delle religioni missionarie più politicamente consacrate, il cui scopo fondamentale è la conquista delle terre. Perciò, nella visione espansionistica di questa religione, uno degli obiettivi missionari dei musulmani è quello di sposare donne di altre fedi, perché esse stesse e i figli che nasceranno diventino a loro volta musulmani. Questa non è una mia opinione, ma mi è stato confermato da più musulmani con i quali ho avuto ed ho contatto. Uno di questi, un mio aiutante sul lavoro, mi disse che nella prossima generazione l'Italia sarà governata dai musulmani. Rimasto sbigottito, domandai il motivo di questa sua opinione e, senza scomporsi, mi fece un ragionamento ineccepibile. Dato che voi italiani avete sempre meno figli, mentre noi ne abbiamo sempre più, poiché le donne italiane sposano i musulmani, presto noi saremo in maggioranza e voi in minoranza. Rimasi senza parole, sbigottito e tuttora mi stupisco di quanto le ragazze italiane siano incredule a questa visione missionaria dei musulmani. Se è vero che l'amore è cieco, questo lo è soprattutto per le ragazze italiane desiderose di sposare un musulmano. Sono incredule, ma più che questo, l'atteggiamento di conquista del musulmano le rende insensibili ad ogni avvertimento, come la morfina rende insensibile il tatto. Queste riflessioni non hanno lo scopo di demonizzare gli stranieri musulmani, non vogliono mettere in cattiva luce chi ha una fede diversa, ma il solo mio fine è far conoscere la realtà delle cose. Se dico che nella cultura esquimese si può offrire la propria moglie all'ospite, se in certe tribù dell'Africa alcuni mangiano carne umana, non è per fare della maldicenza, ma solo per avvertire chi vorrebbe sposare un esquimese o un cannibale. Se in seguito la ragazza che sposa un esquimese si vedrà offerta all'ospite, o dovrà mangiare carne umana, non se ne meravigli. Ma soprattutto, la ragazza non potrà lamentarsi di ciò che succede perché è stata avvisata. Ciò che una ragazza occidentale non sa è che, quando sposa un musulmano, non sposa solo un uomo, ma anche e soprattutto una cultura tutta diversa, che si ripercuote nel matrimonio. Il musulmano non possiede una personalità né una coscienza individuale ma collettiva. Il musulmano non è se stesso semplicemente, ma è se stesso nella religione, nella cultura e nel clan familiare che rappresenta. Anche formandosi una nuova famiglia e pur vivendo distante dalla propria d'origine, quasi tutti questi uomini restano radicati in questo sistema culturale al quale devono pure rispondere. Non facendolo, nel migliore dei casi, incorrono nel ripudio da parte delle strutture sociali, famiglia, amici, fratelli in fede, alle quali appartengono. Per un musulmano, la religione non è qualcosa di separato da lui, un qualcosa che sceglie, ma è vita, anche quando egli non è un praticante, poiché la cultura nella quale si è formato è radicata nella tradizione coranica, alla quale fa riferimento più o meno radicalmente. Il musulmano, per essere tale, è completamente sottomesso a suo padre, alla famiglia e alla comunità. Questo significa che, una volta sposata, la ragazza straniera non è libera in casa propria, e quelle libertà fondamentali che lei dava per scontate le sono rapidamente tolte. Qui non si tratta di giudicare una cultura o fare del razzismo, perché in fondo ogni popolo ha la sua cultura. Si tratta solo di sapere a cosa va incontro una ragazza italiana che si sposa con un musulmano. Se in seguito la sposa di un musulmano volesse il divorzio, occorre ricordare che i problemi matrimoniali verranno risolti secondo la legge islamica e poi il marito musulmano non sarà più obbligato a mantenere la moglie. Questo la ragazza deve saperlo, come deve sapere che i figli che nascono per il marito musulmano sono tutti automaticamente musulmani. Non solo. Ciò che pochi sanno è che un figlio che abbandonasse la fede islamica è sottoposto alla jihad, cioè alla pena di morte. Ero presente in una moschea, dove un imam presentava la libertà dell'Islam. Gli chiesi se era vero che chi abbandona la fede islamica è sottoposto alla pena di morte. Egli mi rispose positivamente, perché abbandonare la propria fede era un insulto e una offesa ai genitori. Gli feci presente che anche certi seguaci della religione cristiana abbandonano la fede dei loro padri, ma nessuno di loro viene minacciato di morte dai genitori o amici. Ancora una volta, non si tratta di parlare male di una religione, ma solo di far conoscere la realtà delle cose. Come io non mi vergogno di dire che Gesù è morto in croce come un ladro e un assassino, così un musulmano non dovrebbe tacere sulla pena di morte incombente su chi è musulmano e abbandona la fede dei genitori. Chi ha una cultura cristiana deve sempre ricordare che un musulmano non ha la morale cristiana di amare i propri nemici e fare del bene a chi ci fa del male. e questo vale soprattutto nel matrimonio. Ma il vero problema dei matrimoni misti non sta tanto nei giovani che compiono questo passo, quanto nelle persone adulte che hanno perso i punti di riferimento della loro fede. Se qualche decennio fa era impensabile che una cristiana sposasse un musulmano, era perché cristianesimo e islamismo a quel tempo erano in antitesi. Ma oggi, con il discorso interreligioso, con la motivazione del colloquio, della necessità di confrontarsi, coloro che dichiarano di avere una fede cristiana hanno abbandonato le radici della loro fede. Se coloro che si dichiarano cristiani non hanno più una fede trinitaria, se non proclamano con forza la divinità di Gesù, se non sostengono che Gesù è l'unico Salvatore e l'unica verità, quali ragioni ci sono per non sposarsi con un musulmano? Se Islam e cristianesimo non sono in antitesi, se alla fine, come si sostiene, abbiamo lo stesso Dio, quali ragioni ci sono per non vedere favorevole un matrimonio con un musulmano? Ma gli interrogativi sono anche altri. Se abbiamo lo stesso Dio, perché allora i musulmani non permettono alle loro ragazze di sposare dei cristiani? Se abbiamo lo stesso Dio, perché i musulmani non frequentano il culto dei cristiani? Se abbiamo lo stesso Dio, perché i figli dei musulmani non possono diventare cristiani? Mi sembra che stiamo vivendo in un'epoca di ipocrisia e di sincretismo. E questo è il terreno favorevole dei musulmani. Personalmente ho un grande rispetto dei musulmani per la loro fermezza e coerenza ai propri ideali, ma vorrei anche con tutto il mio cuore che coloro che si professano cristiani fossero altrettanto coerenti. Noi stiamo sbagliando qualcosa. Piuttosto di scoraggiare i matrimoni misti tra cattolici e protestanti, tra musulmani e cristiani, noi dobbiamo portare le persone a scegliere Cristo come il padrone e salvatore della loro vita. Quando Cristo e la sua volontà diventano gli obiettivi della vita di una persona, questa non ha più il problema di scegliere con chi sposarsi, perché preferirà una persona che abbia la stessa fede. Come i musulmani sono un esempio di coerenza alla loro cultura, così un cristiano deve essere il modello nell'amare Cristo al di sopra di ogni cosa, anche nel matrimonio. Soprattutto nel matrimonio, perché in quell'ambito può rendere una testimonianza efficace. I musulmani lo hanno capito. E noi che diciamo di essere cristiani lo abbiamo capito. Ellero